che me li avevano dati il sesso e non sono riuscito a aggiustarli, capito? C'era, se riuscivo a aggiustare il turbo, quello già era bello, era. Purtroppo non ci sono riuscito e era tutto spaccato dentro, qualcuno gli ha messo le mani e ha fatto danno forte e niente. Poi adesso c'ho questo, meno male che l'ho buscato uno. Vabbè. No, perché se lo dai potrebbe interessare. No, già. Mi è sempre piaciuto questo come radio, anche se è ingombrante. E io c'ho il posto giusto, non è ingombrante per me. Io c'ho proprio i ripiani fatti apposta per quella quell'apparecchio. Cappa. No, io c'ho una bella scrivania grande, ci sta, io a voglia. Io ho messo sopra... Mi ho custodito, gli ho messo sopra il K, gli ho messo, ed è tutto in un punto. Già l'ho visto come, c'è il coso per non graffiare, lo straccio sotto. K, no, hai visto di quella tipo gomma piuma che mettono per, quando fanno ginnastica per terra, di quella lì ho messo. Sì, già va bene quella, non lascia i segni così, già va bene, solo che a furia di metterla sopra poi rimane l'alone. Ogni tanto già la pulisco, non è che rimane sempre sopra, no. Ogni tanto la scendo, tolgo e le pulisco. Davvero? Davvero. Buona, buona. Avanti Eugenio. Sempre Santiago Sisi qua. Ti stai abbassando un po' di radio, ma già ti sento lo stesso. Avanti l'amico, buonasera, non ho capito chi è. Rubio Fossi, già, Rubio Fossi, già lo sai. Che è Bulldozer, mio figliuccio. Eia, ciao già, buonasera, ben ascoltato, Franco e Eugenio. Ciao Massimiliano, ben sentito anche a te, dai. C'è Eugenio che sta scendendo a Portotone, dai, rilancialo un così almeno vediamo dove. Eia, ciao Eugenio, buonasera, ben ascoltato, dai. Eugenio, dai, tutto a posto, sì, già ti sento, un po' bassino, ma riesco a tirarti fuori, dai, non c'è problema. Ciao Franco, a te, buonasera. Cappa, ciao Massimiliano, buonasera, ben ascoltato. Qua adesso è arrivato un 7 di segnale, Eugenio. No, già va bene con l'antenna, Massimiliano. Secondo me ha fatto dritti, già pulisciissimo. E boh, che antenna ha messo? Non lo so. Ah, un antennino corto, dite Eugenio, che antenna è? Del campo. Buonasera, oggi non ti sento più, quasi. Una sessantina di centimetri, quella che c'ha il camion, il DAF, che c'è là dietro la cabina, giusto, tutta nera, non lo sento più. E oggi? Io già ti sento sempre, dai. Ha detto se è quella che mette il DAF dietro la cabina, quella piccola, nera. Ma non sto uscendo? Sì, che stai uscendo. Buonasera. Ciao, ti. Ciao, ti. Ehi, non stai uscendo, ha dato un colpo importante, non mi fa il dato. Sì, già la conosco, oggi. È una frusta vera, ce l'avevo anche io un periodo nella macchina quella. È bellina e va molto bene. Tutta nera, sarà 60-70 cm, una cosa del genere. Però vanno molto bene. Ok, rilanciamo al nuovo ingresso qua. Non so se mi ascolta Eugenio. Ciao Eugenio, rientrando? Ciao a tutti comunque. Ti ascolto, sei Santiago 5, dai, mezzo correme. Va bene, va bene. Quasi così 7, oggi 6 e mezzo, va. Ma stai sempre arrivando. Ciao Tino. Ciao Fra. Oggi mi sembra un po' faro questo Smith, raga. Il tuo? Eia. No, adesso è entrato Tino. Tino di solito arriva a 9.10, 9.20. Ed è 9. Il mio invece andava molto bene, lo Smith era proprio preciso il mio, c'avevo il keyboard, lo confrontavo ed era sempre uguale. Oh fra, non è a barra, perché sono aiutato. Adesso sei arrivato meno di 9. Figurati. Sempre a varo, se ti arrivava 9,20 anche se era attaccato. Sempre a varo, e 20 più 20 di più in meno. Vabbè, lui arriva sempre attaccato, più o meno. No, adesso vabbè, ho l'HR5005, ma solitamente lo vado. Il capo. Avanti, Massimilia. Posizione, qua è arrivando una bomba. Qua non se ne parla. Franco, sempre se si può dire. Cosa? Non ti ho capito perché ti hanno sopramodulato. Addirittura. Ho detto che radio stai usando, se si può dire. Perché no? Galaxy. Saturneco. Ah, ok, va bene, sì, ultima radio, va. Anch'io sto usando quello con un Turner più 3B. Oh, io gli ho messo l'MP più 5, gli ho messo. Infatti sto giostrando per aggiustare, c'ho lo Shure da tavolo sempre, e sto cercando di aggiustare quello lì. E se riesci a metterlo in quello, una bomba, è il migliore che c'è per quella pari. Comunque va bene anche questa Delta su questa Galaxy. Sì, ce l'ho Massimiliano, però l'ho provato stamattina, gli ho fatto le connessioni e tutto, ma mi fischia. E gli ho abbassato anche il Mickey Gay, tutto quanto, ma probabilmente è da molto tempo fermo. E probabilmente vuole, magari prende una qualche bomboletta e spruzzarle qualcosa. Io magari è privo di massa, se sono fatte bene le saldature non dovrebbe fischiare, boh. E vabbè, comunque anche con questo MB più 5 sta andando alla grande, no. Avanti Tino è sparito, riprende già. No, scusate, io stavo dicendo una cosa al computer e niente, già sono qua, così, dai. Salutoni a tutti comunque. Va bene Tino, buon Corix. No, a me Massimiliano, dico la verità, non mi piace tanto con le BB più 5, mi piace più con la Delta, il Galaxy. Io l'ho avuta anche con le BB più 5, ma non mi piazzia. La Delta oppure il Turner, il Turner ci va bene, e poi le Spandau 500 non vi niente. Quello che c'ha lui lo stesso va benissimo, se riesce a aggiustarlo quello lì lo fra, va troppo bene su quella parì. Sì, ma già ci riesco, perché ho visto che ho cambiato la capsula pensando che a provarla solo, pensavo che era la capsula rotta, invece no, non funziona con nessuna capsula, vuol dire che c'è qualche cosa nella scheda. Magari c'è qualche componente che da cambiare. Infatti, sto pensando a quello, sto pensando. Vai, anche dietro. Ma Fra, ma il Michigan ce l'è tutto aperto, sia nel microfono che dalla radio. Adesso? Adesso, è la domanda. Sì, ce l'ho aperto, tutti e due. Ho chiuso dall'interno la radio. Guarda, questa non è stata mai toccata, Massimiliano. Questa ha lavorato 3 mesi e poi l'hanno messa dentro una scatola e l'hanno lasciata lì dal 2000. Infatti lo conto. Allora nuova, va. Infatti, mi ha detto, dice, guarda, questa non è stata mai toccata, mai niente. Questa quando ho smesso di modulare, l'ho messa dentro una scatola e l'ho lasciata stare lì. E me l'ha data l'altro giorno, me l'ha data e l'ho accesa. Come l'ho accesa, l'ho lasciata un po' di ore accesa e poi mi sono messa a modulare. Va bene, comunque se la dovesse aprire il trimmer della modulazione VR14, ok? E la radio VR16. Perché basta come modulazione? Non spinge. Spinge non moltissimo, dai. Ah, ho capito. Vabbè, quello me ne accorgo anche io dal lago che non spinge tanto. Ascolta, i toni come ce li hai delle MV più 5? Tutti chiusi? Allora, i toni, cavolo, no, i toni ce l'ho a 10, questo è adesso. E prova ad abbassarli un po'. Allora, adesso è a 2 il tono, vieni a vedere così, a 2. Adesso è a 3, a 4 adesso, facciamo 5, 6, 7... E anche un po' nasino la radio. 8 e 9, 10, da. Rimane un po', no, non è nasino già, rimane che c'ha molti acuti, capi? ascolta, chiudi del tutto a vedere. Ecco, il tono chiuso del tutto, adesso. Adesso va bene. È più bella la radio così, col tono tutto chiuso. Confermi, Tino. Sì, va molto bene, dai, adesso va meglio. Ci ho aperti, mi chiedi radio e mi chiedi microfono. Però ti ascolto, come se avessi un microfono normale, non sento che spinge la radio, capito? La radio non è spinta, probabilmente come diceva Massimiliano vuole un po' aperta. Vabbè, siamo di legna, pure le mani. Oh, chiara perché ti capiamo bene, però solitamente spinge di più quando c'è il microfono amplificato, capito? Cappa, sì. Aspetta che provo le vedi più 4 a vedere. Questa è la più 5. Sì, questo sì. Però con i toni tutti chiusi è molto più bella la radio. Non è malvagio, cioè non è che non spinge, è che secondo me se non è stata mai toccata magari aprendole la modulazione magari adesso la radio sta lavorando al 60%, capito? Quello è, lo è, infatti è così, se non è mai stata toccata la radio ha bisogno di dargli una spinta. Vedi, questo è l'MP4. Com'è questa? Ma per me è uguale a più 5 con i toni tutti chiusi. K, è vero. Sì. Allora, il tono, vabbè, il tono della radio e i toni sono chiusi, sono a zero. No, non è il problema del tono della radio. Diciamo che, come stavo dicendo a Gianni, magari vuole aperta dall'interno un pochino, capito? Comunque la radio è bella, attenzione, ottima radio, senza, non c'ha nessun difetto, va bene, è bella, è presente, però c'ha quella virgolina, ci vuole in più, dai. Sì. Vabbè, più avanti vedo un po', dai, c'è... perché io ho paura di toccarla, se la tocco posso danno da voi, ciao e arrivederci. Sì, vabbè, deve aprire un trimmer, deve aprirmi, non è che sia una cosa... Poi c'è anche scritto, capito, se tu la guardi, sono tutti in fila, no? E c'è proprio, c'è scritto mod, proprio sulla scheda, che è la modulazione VR14, e quello tu il trimmer lo vedi se è tutto chiuso, a metà, se lo apri tutto magari cambia la musica anche. Se lo apri tutto gli dà più radio. Vabbè, ma non va mai aperto del tutto, Massimiliano, se lo apri del tutto poi magari distorce, fa, invece lo metti appena più di mezzogiorno, come ho fatto io, e va bene. E può andare anche bene, io ce l'ho tutto aperto per esempio, ho già, l'ho lasciato tutto aperto e anche il VR16 è tutto aperto. Microfono a poco meno di metà e il microfono della radio al massimo. E già va bene, Massimiliano, allora fallo, mettilo tutto aperto, se si vede che va bene non c'è problema. Io solitamente appena più di mezzogiorno lo mettevo e quando l'ho aperto del tutto lo distorceva, ma non dipendeva certo da quello, dipendeva dai finali che stavano per partire. Ciao Claudio. Ciao a tutti, ciao. Ok, ciao Claudio, buonasera. Avanti Fra. Cappa, ciao Claudio, buonasera. Ciao Franco, ciao, buonasera. Sono andato a salutarti, ci sentiamo, ciao. Ciao, ciao. Ma sai, ho già di questa radio che non ho mai provato, ecco se funziona. Spiega un attimo. Aspetta un attimo, non ho capito nulla perché forse non vi siete sovramodulati con qualcuno, si sente un rumoraccio. Ma guarda un po'. No, sta andando bene, dai, forse era qualcuno che ti ha parlato sopra quando stavi parlando. Dimmi. Ho detto che volevo provare l'eco, non l'ho mai... mai sentito, dai, lei mi dice se va bene e se funziona pure. Spera un attimo, guarda, 1, 2, 3, prova, accelera. Sì, ma non è un eco che mi piace quello del Gala, se dico la verità. Sì, va bene Massimiliano, ma sembra un'altra tomba. Era questo solo se funzionava, perché è la prima volta che lo provo, la verità, sì. Lo tolgo. Sì, fallo provare a Franco, l'eco, così senti come esce. Catedrale. Ok, dai, quello è strano, ma comunque quelle ecco, si può modificare, si possono aggiungere delle cosettine, diventa tipo Colt, da. Aspetta che mi sono dimenticato, ciao Clara, scusa che non ti ho salutato, ci sentiamo, buona serata. Ciao, ciao, ti sto ascoltando, ma c'è gente, non posso continuare. Marco, una cosa si trattende, lo Galaxy. Eia! Bordeaux si è diventato un Galaxy. Non l'hai preso a Sassari? No, me l'hanno dato qua a Soccio. Ah, ho capito, zio, va bene. Io sto vendendo uno comunque, ti interessa. Questo va a concordare di persona. Più due microfoni da tavolo. Uno MB+5 e l'altro che sarà da Master Plus. Ciao a tutti, non posso rimanere. Ciao ciao. Ottimo Massimiliano, sembra avere dentro una tomba. Bruttissimo l'eco del Galaxy. Non voglio dire la parte, non è un eco, è un reverbero brutto, bari dentro una ambulanza. 10.000 sempre. No, era giusto così, è la prima volta che lo provo. Giusto solo per vedere se funziona. No, non mi piace la cammella, ecco, del Galaxy, tipo cattedrale, mi capito, non mi piace. Andrà bene, dai. No, ma il mio è chiuso, me lo fa per chiudere la tua persona, è chiuso, c'è l'interruttore, però è chiuso, no. Così non funziona, è chiuso, dobbiamo aprire la radio e girare il termometro, è chiuso. Per cui stiamo pensando appunto di fare una modifica, se lo tengo quell'interruttore, usarlo per la potenza del lineare interno, capito? Almeno non si vede niente. Ah, ci stai mettendo il 747 all'interno? Sì. Lo sta smontando senza il case però, sta smontando, già capito chi? Sta smontando, praticamente rimane solo il circuito stampato con i due connettori PL che vanno attaccati dietro al pannello e l'interruttore si usa quello dell'eco, capito? Si toglie la scritta eco, ecco il trasferibile, si scrive AMP, capito? E vabbè, la puoi anche lasciare la scritta là, sai che quello dove c'è scritto eco ti serve per quello. Come invece la modifica fatta bene proprio da poter poi sponsorizzare, no? La tolta la scritta, si fa uguale, ecco, trasferibile, sempre bianca così piccolina, anziché ecco, si lascia l'on e off e si scrive AMP, capito? È una cosa bellina, sì, perché col case non ci sta e quindi sta smontando solo il circuito stampato con i due connettori che vanno collegati dietro, a fianco al connettore della, tutte e tre in fila, i connettori sono tre, dove c'è l'altro connettore dell'antenna, l'alimentazione è presa dall'interno, collegata direttamente a quell'interruttore lì, capito? Un lavoro fatto bene. E in pratica passa, infatti vanno regolati a 4 watt, però senza modifica e senza niente, quindi da 4 a 10 watt, per usarlo con e senza, capito? Tutto internamente. Ho capito, c'è un bel lavoro, va. Va bene, buono. E dove lo mette il coso, come si chiama, lineare, al posto del trasformatore, fa il trasformatore esterno, no? Già, per tanto dopo chi sa radio, vi vedevo. Solo, se tu apri quel 747 dentro non c'è niente, è tutto il cassone di ferro che fa spazio, è un circuitino quanto un pacchetto di sigarette, capito? Quello lo toglie da dentro e si mette a fianco all'altro circuito stampato, non so io a Senadi quello che deve fare, la cosa è un bellissimo lavoro. Ok, vabbè. Ne ho avuto 747, uia. Sono stato il primo a Sassari, davvero. Antonio 747, voglio avuto due Antonio Riserva. Uno l'ha regalato a un amico per la macchina, un altro ce l'ho, poi c'ho un B300, un B150, un Nagio lineare di macchina, tutti buttati dentro l'armadio. Infatti inizialmente volevamo mettere il B150, però non ci siamo fidati perché non c'è lo stadio finale a MOSFET, capito? Quindi è meglio il 747, è meno potenza, però almeno funziona bene. E vabbè, comunque lo fai come il turbo adesso, con 100 watt di uscita. Sì. Infatti molto probabilmente si fa anche col traccio libero, dove c'è scritto Black 61 turbo. Con il traccio libero è sempre bianco. Vabbè, quando è finito pure lo faccio vedere. E poi lo prendo turbo architetto del Guru Matteschi, però prima facciamo questa cosa qua, lo tengo, lo provo e poi lo do con due microfoni a tavola, una MVP5 e c'è della Master Plus. Va bene Franco, a te il microfono, stai arrivando benino qua, non bene come sempre, benino, dai, segnale 7 radio 5 già va bene. E beh, a me mi fate entrare, buonasera. Sì, io ti faccio entrare, sto uscendo, però ciao a tutti, quelle di prima che c'è gente, ciao grande Claudio, ciao, ci sentiamo. Allora ragazzi, ho ripreso da casa, come sta andando col camper? Bene qua. Anche qua, ciao G, buonasera, ciao Cla, buona serata e buon tutto là. Sì, anche qua oggi sta arrivando benino. Diciamo che è un po' bassino quando sei arrivato nella tua zona, ma stavi sicuramente scendendo sulla strada bianca, no? Comunque ho capito quelle antenne che hai, e va bene, dai, ce n'è per i maiali, ho voglia. Avanti, Fra. Ehi, capo, dai. Ciao, Claudio, ci ascoltiamo alle prossime. Ciao, Eugenio, buonasera. Ciao di nuovo a tutti, buonasera di nuovo a tutti. Massimiliano, hai capito, sono quelle antenne che hanno la carica sotto e poi hanno anche lo stiro con la carica. Sono quelle originali dei camion che escono con queste antenne qua. E me ne hanno regalato due, mai piazzate. Però ci ho provato come sono nel campo sopra la cappotta. E funziona bene, cioè parlavo con Franco a sorso, tranquillamente. Quindi è una bella per la macchina. Aspetta un attimo. Oh, scusate, ma vi devo lasciare che mi stanno chiamando a mangiare. Ciao Massimiliano, Gianni, ciao a tutti, dai, ci ascoltiamo alle prossimine. Li prendi Massimiliano. Ok, dai, ciao Fra, buona carica, buon tutto, avanti Eugenio. Ciao Fra, ci sente alle prossime, vai, se coincide, ciao. Ciao Franco, ciao, ci sentiamo. Ciao a tutti, buonanotte. Sì, buonanotte, ragando più tardi, mamma mia. È l'ora del mangime adesso, dai. Va bene, ciao Fra, ci sentiamo. Sì, ho capito, Eugenio, che le antenne sono, sì, le monta il DAF, quelle antenne lì. Le mettono dietro la cappotta, da per intenderci. E beh, una non me la dai, Eugenio. No, Gianno. Quello me le tengo, che fanno bene. Ma siccome le sto cercando una nera, perché devo fare il buco nella macchina, se non faccio la voglio piccola e caricata, capito? Vabbè, no, te l'ho chiesto così, ce l'ha data. Piccola e sincera. Il filo originale. No, perché mi dispiace, un'antenna che trovo che va bene me la tengo, di riserva. Andave, buscamene una se ci riesci, te la pago. Adesso chiedo. Ma tu non avevi la PLC800 già? Cosa? Non avevi la PLC800? No, io c'ho la Turbo 2001, però è troppo grande, Massimiliano, e la sto usando con la magnetica, tornando dal vero, che se mi si è staccata la magnetica, giù mi faccia pure la macchina. E l'ho dovuta trascinare per un bel po', perché c'avevo le macchine dietro, non ce l'ha potuta fermarsi. Ho spaccato tutta la calamita, tutto gambe, tutto giambato. Ho dovuto cambiare la cosa, la calamita, ed è di quelle grandi. Ma la Turbo 2001 è troppo grossa per mettere l'accento della cappotta già. Io non avrei buccato. Io già nell'altra macchina che avevo, aveva l'antenna dietro, ho infilato l'antenna così piazzata nella macchina, l'ho infilata sotto il centro della cappotta e nel buco dell'antenna ho messo l'antenna della radio e non buchi niente, va bene lo stesso. Ma è brutta come stetti, che io la volevo mettere davanti, dove c'è la plafoniera. Aspetta, ma tu la macchina tua dove c'è l'antenna, dietro o davanti? dietro, è brutta però, dietro. Ah, tu vuoi bucare proprio centro capota, così? No, anche dove c'è la plafoniera, che c'è il buco, togli la plafoniera, rimane il buco e lì da fuori bene, capito? Senza stare a smontare il cielo e tutto. Ah, ok, là. No, io poco fa, me l'ho messo in macchina, la PLC 800, domani sera passo a un amico che serve per il camper, gliela sto vendendo, tanto non me ne posso nulla. Vabbè, io ho lo stesso attacco, nella mia posso mettere anche la PLC 800, lo stesso attacco c'è. Lo so, io tanto c'ho anche la Sirio 5000, c'ho un'altra Midland, capito, però quella è attacco a PL, quindi è un casino. E me l'ha chiesta se gliela davo, già gliela ho tanto buttata lì. E ho avuto anche quella io, ma con Gigi l'ho presa nuova, non siamo riusciti a regolare le stazionali. E dava sempre come di stazionali. E con le stazionali più alte arrivava più forte quella lì della Turbo 2001. Te ne immagini che aveva le stazionali regolate. Gianni? Ehi, ma non è controllo, come sto arrivando? Prova, Tony. 1, 2, 3, prova di modulazione. Sta arrivando bene, dai. 6, 9, 10. È poco comunque. Ma lo sai che questo Smith è avaro. Ok. Se avessi avuto il garage ti avrei dato un controllo giusto, va. Qua è sì, ciao Tonino. Ciao, dove sei tu? A casa. E vabbè, io sì. Ah, non più forse, già lo sai, no? No, perché sto usando un altro apparato, le modulazioni sono più diverse, la topparanza è diversa, capito? Comunque qua sì, Radio 5, Santiago 6. Comunque, neanche a Giovanni, neanche a Gianni li conoscevo, penso a poco. Prego. E anche Eugenio è da Patango, vai Eugenio. Forse magari si è spostato. Eh? Oh già, sì, anche io ce l'ho avuta quell'antenna, come quella di Eugenio. Non so se te la ricordi in quella multipla blu. Da Righiero arrivavo a Santiago 7 a Sassari. Già break, già. Avanti break. Ciao Gianni, buonasera. Ti passo un amico, sono Carlo. Ciao Carlo. E dove sei? Alghero? No, via Vardabasso sono. Via Vardabasso. Questo è Pomponio. Ma che cazzo ti ha piato? La bella che ha preso il volo, cazzo, quella che serve di magnetica. Non è possibile, dai. Invece è possibile, c'è la base grande, quando tu schiacci il piede si stacca, perché l'antenna è lunga, è grossa, è pesante e l'ha staccata. Tutto è possibile, Ali, è provato su di me, quindi è possibile. Io ho pulito il tetto, io prima di mettere la magnetica pulisco sia la base della magnetica sia il tetto per non graffiarsi la macchina, e io sono molto previdente. E probabilmente il fatto che io abbia pulito, anche se ha asciugato un po' l'umidità, non ha fatto venire bene la calamita. Ma fagli pure metterla come si deve l'antenna. Già, ma lo sai che la magnetica non prende a 130-140, lo sai anche tu. Ma le faccio il buco alla macchina nuova, è quello che mi rompe, se no l'avrei già fatto, ma lo voleva fare quando mi ha fatto l'impianto da Pudi, che mi ha detto cosa facciamo, il buco per l'antenna, no, non ne faccio buco, ma lo voleva fare. Lo sai che la magnetica lo sapete anche tu, non è che non lo sai, che non vedi più di tanto. Massimo 90 km, non di più. Allora, lo sai, quando tu non ti rendi conto di quello che stai facendo, stai camminando, stai tornando a casa e non ci pensi che c'è l'antenna su. È successo così, e purtroppo è andata e buonanotte. L'altro giorno invece l'ha avvitata bene e mi si è piegata l'antenna, se ne è abbassata da sola, quindi non faccio più affidamento, voglio mettere una buona antenna corta che la lascio fissa e buonanotte. Ma corta non riesci nulla, già lo sai anche tu. Lasciami quella lì, fagli il foro, o sotto la metti dove c'era il cofano, l'attacco del cofano e va fanculo, a un certo punto sei tranquillo. Ah, non esce così. Quella che c'ha Eugenio, vanno bene, sono quelle frustane là che metteva il DAF, che mette il DAF e vanno benissimo. L'ha sempre vantate anche i Gigi, quindi lo sanno Luigi che ci vanno bene. Vabbè, Eugenio ci sei, avanti. Oh, Eugenio non si sente più, ce l'abbiamo dimenticato, ma si vede. No, ha detto che riprendeva dopo già. Va bene, dai. Avanti chi tocca, sotto chi tocca. Con la 7 in tandem, Carlo, con Alessio. Ciao, Massimiliano. Bomboni, mi senti? Sì, ciao, Tony, dimmi tu. Poi aggiungi cosa sai, no? Va bene, tutto a posto. Comunque, ho già. Ne sto venendo a Porto Cervo, comunque. Sono stanco. Grimaldo, lo so, è lontano. Vabbè, dai. Così almeno hai fatto quello che dovevi fare. Ma hai ricevuto quel messaggio che ti ho mandato su WhatsApp? E quando l'hai mandato? Con la foto, qua e guarda. È perché io dalle due fino adesso non ho mai toccato il telefono, eh. E poi ho fatto il giro addirittura da Santa Teresa a tutta la costa per entrare, capito? Ho fatto un giro più grande. Adesso me lo guardo, eh. E vabbè, vai con due belle. Con due belle donne. Vai da bravo. Vabbè, avanti. Oh, ma ci vediamo. Sì, dai, io riprendo già che chiudo. Comunque io Alessio non lo sento, anche se lì via Valda Basso non lo sento. Dai, ci sentiamo, ciao Gianni, Tonino, salutatemi Eugenio quando entra. Saluto a Carlo e a Pomponi e a tutti quelli che ascoltano. Ciao. Ciao, ciao, ci sentiamo, Massimiliano, buona carica quando la fai e tante cosce belle. Ciao Massimiliano. Ecco, se mi ha mandato le pizzone su Maio, dai. No, non solo quello, prima, guarda. A te. E che so? Mio figlio, mio nipote è a pranzo e cerca di capire, no? E no, perché scusa, non vedevo, a te non ti vedevo, cioè. Fammi capire almeno. Comunque, l'altro messaggio che mi ha mandato degli uccisi a KPG, ma quando mai che ti ho le buone preservative al maschio. Tu fai adesso la collezione delle bizzone mio, via. Oh, che collezione, me li vendo. Avanti a chi tocca, a chi spetta. Lesci, ancora ci sei. Sicuramente sono saliti su. Chi è rimasto? Solo noi siamo rimasti, Tony. Eugenio non c'è. Mi sembra di non dimenticarvi nessuno. Mi stai dimenticando di Carlo e Antonello che sono in macchina sotto casa di Antonello. No, io ho chiamato Pomponio e non mi ha risposto, non ho dimenticato, avanti. Sono in macchina e sto facendo le cose sporcaccione. Antonello. Ma arrivi in basso, come vai da lì? E cosa del socio, boh? Basso da lì. E di radio però, di radio, Antonio, il segnale già va bene, la radio è un po' bassina. Vabbè, già ne vedi, cambia il microfono in questo palazzino qua, così me lo usci meglio. Che magara. Oh, yeah. Vabbè, là. E allora Carlo, adesso sei uscito? No, non è che sei uscito adesso, sono uscito da sera, vabbè. Adesso dopo prova, ti sento te come ho io a casa sua, così almeno vediamo come lo senti, no? D'accordo? Almeno vediamo come cambia la storia da un palazzino normale a un Saturn Echo. Si sta prendendo il Saturn Echo tuo? No, io l'ho pensato, non è che te lo sta pigliando. Dietro, prova, almeno ti sento come esce. A un certo punto, perché io non posso sentirmi, capito? Sono troppo attaccato. Va bene, dai, adesso vi saluto che stanno a portare giù il cane e vado a cenare, dai. Ci sentiamo ragazzi, statemi bene, buona serata a tutti. Ok, ciao già, anche il manco è curioso, dai. Ciao Antonello, ci sentiamo le prossime. Ciao ciao. Ciao a tutti, buona serata. Ciao Carlo, ciao. Ciao. Andà bene. Chi è? Carlo. con la mia parietta da casa. No, facciamo una prova. E intanto mi trovo le stazionali alte, boh. Ebbene, Ugariello. Quadrato. E sto dentro a casa in macchina. Ehi, chi è, avanti? Gianfranco la scimmia, buonasera. Ciao Carlo. Ciao Gianfranco, e beh, sto a posto. Quello con la scimmia sì. E allora? E beh sì, mi è appena rientrato a casa. Ti avevi conosciuto l'altro giorno, sì? Sì, solo che ero in curva e non fa ben tempo. Cioè, che ti ho salutato già, però non ti ho visto sfuggire. Noi andiamo sempre lì a fare la passeggiata. A Sant'Orso, avanti Carlo, perdino. Sono in via Gramsci in macchina, sto rientrando, ero insieme ad Antonello facendo quattro chiacchiere al bar Quadrato in piazza dei Segni. Ehi, Carlo, ciao, mi ascolti? Yes, ti ascolto, via Gramsci adesso per me. Il Mirto, mi sto solo breve. Luca, mi senti? Sì, ho detto, a Pompone non voglio dare il Mirto, sono solo breve. Gli ho dato una bottiglia di Mirto e una bottiglia di Baccanti con ananas. E adesso prende la mia salute. Dato lui, sono la tua salute, è la mia no. E dopo mi ha prestato il Saturneco suo da provare. Giusto per vedere come esco con la mia antenna. Domani se ce la faccio lo collego e così provo quello. Eravamo così a berci due o tre birrette e me ne sto rientrando a casa. Sì, già va bene ogni tanto, dai. Così compagnia, vecchiacche già fanno bene. Dai, allora organizziamo. Fai un sabato, buon sabato mattina. Insomma, da organizzare, se vi siete liberi ovviamente. Ma ci troviamo da qualche parte, mica anche se Venettino. Non so, qualche altro, beci un caffè. Guarda, per me volentieri, se ci organizziamo possiamo anche andare a prendere una pizza un sabato sera magari. Io di libero di sabato sera c'ho il 28 di maggio, se vogliamo organizzarci ci andiamo, ci prendiamo una pizza e così ci conosciamo di persona e ci facciamo una bella chiacchierata e quattro risate. Sì, non c'è problema, si può andare anche da Bruno, che non si paga molto, si è molto buona la pizza. Guarda, io e Antonello sicuramente ci siamo, se vieni tu siamo già in tre, poi se organizziamo magari una decina di persone le becchiamo, dai. E non c'è problema, se vuole venire anche Tino, sei libero magari, se non è impegni, ma Tino mi sa che c'è l'impegno con la famiglia. Volentieri, chi vuole? Io di sabato, se c'è un libero la domenica, di sabato sto già partendo. Oggi è andata male, perché sinceramente... dovevo andare anche un amico che aveva un citano con delle macchine e poi invece ho dovuto disdire perché Gabriele aveva la partita e niente, non ho dovuto andare lì a portarlo a giocare, quindi diciamo ho passato la domenica più maggio a casa, ecco, se no ero già fuori. Noi siamo qua, però noi sono fatto col sistema di un computer, non so che la finisco, dai. A dopo, adesso sono qua, avanti Tino. Andare, vabbè, dai, ciao. Lui, rimango un attimino così, se vuole fare una cosa al computer che mi serve per domani. E a Tino, va bene, sì. Già sono qua, Carlo. Va bene, ciao Carlo, ciao. Ciao, dai, ci sentiamo più tardi. Intanto io sono impegnato, adesso sono qua, dai, a dopo, ciao. Ora, prova. E beh già. Più più. Ciao Luca. Ah, Pompone, ma sembra lì già. Avanti, vuole entrare che non sa scendere dove d'arrivo. Adesso sto scendendo ancora. Sì, adesso sì. Si è messa portando da sola, deve essere che ha surriscaldato un po', si è messa in protezione. Ah, boh, ho sentato, sì. Andare, ciao Antonio, dai, ti saluto perché sinceramente stavo per spegnere, stavo facendo il latte al bambino, l'ho lasciato un attimo in accesso e mi ha bippato la radio. Ciao, c'è problema, non ti preoccupare. ordinario. Io ti sento bene più che altro, Segnale aumentato 9,25. Ciao Antone, buon fine primario. Ah, che 80, non c'è problema. Ciao, è consiglio del Valpo che mi serve. Ciao. Ehi, già c'è da qua nel Valpo, non ti preoccupare, già me le, già te le conservo. Ciao. Ascolta, non è proprio bruciate con voi. Bruciate, le facciamo bruciare, la rossiana. No, che mi devo fare un po' di bicchieri, non ne ho a casa. Ciao Luca, ciao, a più tardi. Ehi, ciao a te, buon proseguo, io stavo in un computer, il bombolino, ho finito, dai. E andate a voglia. Voglia. Voglia. Carità. Vabbè, con voi, in giro e... No, stavo pensando di tassare di a Giovanna poco fa. Ho dato l'apparecchio mio a cosa, l'ho sistemato a Carlo, a provare la casa sua, e dopo ho detto col microfono amplificato, ho detto poi ci sentiamo dopo. Poi invece mi ha chiamato mia sorella, mi ha detto dammi la mano, dice devo mettere due tassi per non attendere. Ho fatto due fuori e dopodiché sono salito direttamente qua. Ma ci stavo dicendo che eravate insieme, dai. Lo si deve con una birretta. Sì, mi ha preso una birretta, l'ha detto. Giovanna, poi vabbè, con Carlo siamo andati al quadrato, visto che era cambiato tutto l'ambiente. Il bar è molto, veramente molto meglio di come la prima. Più bello, la verità, Meglio così? Sì, chiaro grido. A me lo è più bellino. Una volta che va lì a bere, cazzo, è un bel ambiente, quello che salendo, cioè, il bar quadrato, te lo ricordi, no? Adesso è totalmente cambiato, ha detto gestione, ha fatto tutto, è veramente bello, non ci sono più le vendite di sigarette, non c'è niente, però a me è bello, ci mancherebbe. Meglio così? No, non ne sapevo nulla io, la verità, l'ho visto oggi. Pensavo che era vecchio modello. Vecchio modello? Eh beh, sono da me che non ci vado io, ma sono quasi un anno che non ci vado, figurati tu. Ma quello dove ce la fuori prima? Ah, a fianco, come si chiama? Alla pizzeria. Qui c'era quel bar, il bar quadrato. Adesso mi domanda che ha cambiato gestione, ha cambiato tutto, ci sono delle ragazzine di 18-20 anni, carine la verità, comunque sia, quindi. Ma si chiama il bar il rado? Non so se il bar rado o il rado, come cazzo ne so io. Però la verità è un bel bar, la verità, non ne posso dire niente. È veramente bello la verità, come bar, Ma c'ho anche le donne, là. C'è un ragazzino di 20 anni, 22 anni, non di più. E quelli sono i migliori. Io lo credo. Quando vedi le ragazze così, a voglia se ne entra la gente. Sono tenere e tenere. E si può sostenere con un grissino. Quindi figurati tu. Io sono tutto gonfio, Anch'io. Andiamo e andiamo, che te diavolo. Cosa lì dai, cosa lì dai. Computer non manda i buglioni. Chi? Computer. Ah, e vabbè, quello... Sempre, di solito, lo fa. Tu lo sai aggiustare, sì. No, me non frega niente per il computer. Io mi lancio solamente di me. Lui è stato un ecco che hanno sempre lo stesso difetto e... gli altri apparati, che altro. Il mio Saturneco è a posto adesso, l'ho prestato a Carlo, cosa me lo usa lui un pochettino, però a me lo come esce, come si sente, se va bene, se non va bene, eccetera, eccetera, perché cioè, a sentirlo a casa è un discorso, invece sentirlo da fuori è totalmente diverso. Ah, beh, certo. Adesso spero solamente che entri un po' senza. Almeno lo provo e vediamo come esce. Sei poco quello che ho sentito nel macchina però. Sì, macchina è un discorso, ma a casa è un altro. C'è il sapere. Ah, beh, certo. Certo. Oh, mamma mia, questo. Stanchiscia. Ah. tanto me l'ha fottito 30 euro dalla carta. A te, quando hai tirato i soldi stamattina, non ti è mancato nulla, niente, dai 140, non so, a me dai 140 euro, i 40 me l'hanno tolti, ma i 100 me l'hanno dati. Oh, che non c'ho nulla io. A me quanto poi l'ha fatto così. È stato un cane in culo, finito vai. 18 mesi è stato un cane in culo. Non ne fai più domanda? No, non ne faccio più domanda. Assolutamente non ne faccio più. Non mi faccio prendere per il culo. E che cazzo? E fai vedere, tanto mi faccio una mania sul web. Faccio un'altra domanda e mi faccio i soldi come facevo prima. Andavo in banca, mi ritiravo i soldi contanti e va a far culo. Allora, forse è l'unica. A me lo campo, se no come cazzo faccio a campare io in queste condizioni? Non resisto. Ma infatti, chiaro che ti capisco, non sei il primo. C'è gente che si lamenta. Vabbè, io avevo, purtroppo, come andrà niente, fatemi sui fondi, ti giostrano come vogliono. E intanto i romeni fanno quello che vogliono, hai visto? I romeni non fanno altro che fare il giocatore caduto, si tirano i soldi contanti, si pigliano la cocaina e se la vendono. E allora, sei verso cuomani. Appunto per quello, e quindi a un certo punto bisogna fare i furbi. Sì, c'è un attimo l'acqua agli olive. D'accordo. Cuore nell'ombra, la vita nel silenzio, tanti ricordi. Sì, vedi? Sì, perché il tuo televisore è un po' che strano. Sto cercando la voce, vuoi trovare? 5 secondi, 5 minuti. Anzi, non 5 secondi, 5 minuti. Via. Dove è entrato il pompo? Dimmi, non ho capito. Ho detto, sei entrato, Carlo. No, non ho cosa, aspetta che lo chiamo, se entra, così sentiamo questa tonnetta. Via. Non rispondere, ovviamente perché sto facendo qualcosa, questo non lo so. Capiamo, anche dopo, al limite, o sono male. Vabbè, male sarà messo a letto. No, a letto, non ti preoccupare. Già in casa mi ha detto, quindi ho scelto.